alle di torinesi, falsi e cortesi, però si dice che siamo. No, cortesi. Ecco. Ah, no, da mia sorella, dice, la vuoi improverare tua madre? Ecco, c'è un detto in piemontese che dice, quanca l'om sfatera, la donna la vembela. Non ce ne ho uno, marchigiano, mannaggia. Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? Dei veri e propri gatti di mare. E questa? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La mia valigia, casa a tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zip, sogni lontani. Avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. La mia valigia, quante aspettative di serenità quando la riempiamo, pronti ad andare in viaggio, e magari ce la riportiamo indietro ancora più carica di ricordi, tutto quello che ci siamo comprati un po' in giro e che ha contraddistinto tutti i ricordi che naturalmente contraddistinguono le nostre esperienze di viaggio. Allora pensavamo di riuscire ad evitare di parlare eccessivamente, quantomeno quest'anno, delle disavventure di chi va in vacanza, memori anche delle ultime estati che hanno visto protagonisti i malcapitati viaggiatori di alcuni vettori low cost falliti, l'ultimo 2 anni fa Winjet, lo ricorderete bene. E invece, neanche ad evocarlo, neanche a farlo apposta, eccolo qua il fattaccio dell'estate 2014. Lo sapete che c'è grande attesa, lo dicevamo anche nel giornale radio, per la firma finale dell'accordo fra Alitalia ed Etihad, ma centinaia di dipendenti della ex compagnia di bandiera non stanno attendendo un bel nulla. Perché? Perché stanno contestando naturalmente la piega che questo accordo sta prendendo da molte settimane. E allora, lo avrete letto dai giornali, o ancora peggio, forse qualcuno di voi o un vostro parente o conoscente è rimasto vittima dello sciopero bianco messo in atto dai dipendenti all'Italia. La protesta è stata ribattezzata anche valigia selvaggia. In sostanza hanno incrociato le braccia, a partire da domenica scorsa, le maestranze degli addetti al carico e scarico bagagli, che aveva sottolineato la società di gestione degli aeroporti di Roma, se tratto nei giorni questo sciopero avrebbe rischiato di generare una vera e propria crisi dell'intero sistema operativo del primo aeroporto italiano. Ora, la situazione sembra si stia gradualmente normalizzando, ma è chiaro che i disagi subiti dai passeggeri, chi li pagherà? E comunque bisogna vedere se tutti sono rientrati in possesso dei loro bagagli. In realtà questo non ci risulta. Proprio poco fa anche il mio collega all'assistenza tecnica Peter Bescapè mi raccontava di amici negli Stati Uniti che sono lì senza la loro valigia, perché proprio transitati a Fiumicino. E allora di tutto questo parleremo questa mattina con un esperto di diritti dei consumatori e di diritti dei passeggeri, particolarmente l'avvocato Carmelo Calì della Conf Consumatori. Buongiorno, ormai il nostro esperto di riferimento per tutte le estati. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, naturalmente il numero verde per comporre le vostre, il numero verde da comporre per formulare le vostre domande sono sempre le stesse, 800 24 00 24 per esporci i vostri dubbi su questo tema, e se volete raccontateci anche se vi è capitato in passato di perdere la valigia, anche se non era questo, se questo non è accaduto per colpa di qualche sciopero selvaggio, e da chi e come siete stati supportati, quale trafila si è resa necessaria nel vostro caso, anche se in realtà c'è una disciplina molto precisa per naturalmente contestare con le compagnie quando queste effettivamente si rendono protagoniste di queste perdite. Prima di cominciare ad interpellare l'avvocato Calì, però, vi faccio sentire che cosa ci ha detto l'ingegner Daniele Giuseppe Carrabba, direttore centrale coordinamento aeroporti dell'ENAC. Lo abbiamo sentito proprio questa mattina. L'ENAC, per rispondere a questa situazione di questi giorni, ha proprio allestito un una task force in collaborazione ovviamente con gli aeroporti di Roma per gestire la problematica di queste migliaia di bagagli rimasti a terra. Allora lo abbiamo interpellato poco fa, sentiamo un po' in questo momento qual è la situazione. La situazione è sicuramente tranquilla rispetto a quello che è stato lo sciopero bianco improvviso attuato un paio di giorni fa. Purtroppo bisogna tenere conto di quello che è la situazione che si trascina, quindi noi parliamo di oltre 10.000 bagagli che devono essere riportati nelle varie destinazioni. Tra l'altro questa situazione si sta ripercuotendo anche su qualche aeroporto, in particolare sugli aeroporti siciliani, Palermo, anche lì sono partiti con una task force che cerca di mettere in atto delle azioni per mitigare un pochettino gli effetti, ma io credo che prima di 5-6 giorni sarà difficile, se non si aggrava per altri motivi, risolvere la situazione. Tra l'altro si stanno trovando anche delle soluzioni alternative, i bagagli che sono destinati a in Italia stamattina partiranno via strada, quindi con mezzi gommati. Per quanto riguarda ovviamente i collegamenti europei e extraeuropei, la situazione è molto più complicata, vengono messi nelle stive degli aeroplani che vanno in quelle destinazioni sino alla capienza, perché ovviamente non si può non tenere conto anche dei bagagli che vengono messi, quindi è una situazione abbastanza critica che è affrontata con molta serietà sia dal gestore aeroportuale, noi stiamo in qualche maniera coordinando queste attività, ma non posso nasconderle che sicuramente il problema non si risolve né oggi né domani, quindi occorreranno sicuramente alcuni giorni per risolverlo, sperando appunto che la situazione si fermi qui e che non possa essere ulteriormente aggravata per azioni che in questo momento ritengo veramente molto pesanti nei confronti dei passeggeri in un periodo particolare dell'anno che è quello delle vacanze, purtroppo. L'ha detto l'Engineer Carrabba, noi condividiamo naturalmente questo pensiero, perché pur appoggiando la contestazione dei dipendenti di Alitalia, che è sacrosanta, perché se una persona non sa se all'indomani o nel giro di un mese, di una settimana, di 6 mesi non lavorerà più, è chiaro che mette in atto tutte quelle iniziative di protesta che è capace di mettere in atto. Certo che farlo in questo momento è significato proprio volersi far sentire a tutti i costi. Convengo con lei, devo anche dire, questo a tutela dei passeggeri, che oggi comunque sono previste delle forme di assistenza, anche di natura economica, quando il tuo bagaglio non viene consegnato, ci sono dei regolamenti che parlano chiaro, al di là di quello che potrebbe essere lo smarrimento definitivo, per cui c'è anche la previsione di un rimborso, ma c'è anche la possibilità, seguendo una particolare procedura, di avere rimborsato le spese che tu hai dovuto affrontare proprio per la mancanza dei bagagli e di quelli che possono essere ovviamente tutti quelli che vestiti, abiti, quello che può servire appunto per la vacanza. Allora, avvocato Calì, ha sentito quello che ci ha già iniziato a spiegare l'ingegner Carrabba, di cui poi dopo sentiremo una seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato questa mattina, e un po' ha già toccato il tema dell'eventuale indennizzo per i malcapitati protagonisti di questa vicenda. E poveretti, naturalmente, certo, tutto avrebbero immaginato, tranne che proprio tra il 5 e il 6 agosto lo scalo di Fiumicino, che già è piuttosto affollato in periodi come questo, come tutti gli aeroporti del mondo, naturalmente tutto avrebbero immaginato tranne che dover subire anche questa situazione. Un caso clamoroso in cui, come al solito, non abbiamo fatto una bella figura. Allora, intanto ci dice se state raccogliendo come Confconsumatori delle proteste da parte delle persone che sono rimaste vittime di questa situazione in questi giorni? Sì, noi stiamo ricevendo proprio moltissime segnalazioni, sia mezzo email, sia ai nostri sportelli che anche telefonicamente, e molte persone che appunto ci chiedono cosa fare, chiamano, magari scrivono magari delle mail mentre sono in aeroporto eccetera, perché magari appunto le persone nell'immediatezza dei fatti chiedono magari di avere delle indicazioni su come comportarsi, cosa fare, su quelli che sono i loro diritti. E quindi il problema rischia, come diceva l'ingegnere Carrabba, c'è un problema relativo alla possibile normalizzazione della contea, perché appunto quello che noi stiamo registrando è proprio quello che diceva lui, cioè nel senso che ancora a cascata questi ritardi ritardi dureranno ancora alcuni giorni. Le risultano anche questi disagi negli scali siciliani, come ha detto l'ingegner Carrabba? Glielo chiedo giusto perché lei è di Catania e peraltro proprio per questo motivo 2 anni fa aveva avuto modo di monitorare in prima persona tutta la vicenda di Winjet. Avvocato Calì. Sì, sì, anche sugli scali siciliani, anche quello di Catania, ci sono moltissime segnalazioni di smarrimenti bagagli all'Italia proprio sui voli provenienti da Roma, quindi anche come aeroporto di destinazione finale di con partenza da Roma ci sono moltissime denunce di segnalazione di smarrimento bagagli all'aeroporto. Quindi, allora 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta su questo argomento. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666. Vedo molti ascoltatori che naturalmente commentano l'atteggiamento di questi dipendenti che chiaramente hanno deciso di fare questo sciopero improvviso, selvaggio, lo sciopero della valigia selvaggia. Adesso, a prescindere dai commenti folcloristici, noi non vorremmo commentare le scelte di questi dipendenti. Ieri, se qualcuno di voi ha sentito Focus Economia, abbiamo interpellato i sindacalisti in rappresentanza di questi lavoratori e naturalmente ci hanno espresso tutta la preoccupazione, proprio perché sapete che le trattative per l'integrazione con Etihad sono state lunghissime, estenuanti, contemplano molti esuberi naturalmente, molti lavoratori non sanno che fine faranno. Quindi noi da questo punto di vista siamo assolutamente vicini a questi lavoratori. Molto spesso le condizioni di lavoro anche di questi dipendenti che sono addetti al trasporto dei bagagli da una parte all'altra degli aeroporti sono condizioni di lavoro molto faticose, si lavora anche sotto 40 gradi naturalmente al sole tutto il giorno, e per cui anche la qualità della vita di queste persone è quella che è. Detto tutto questo, naturalmente, però, ecco, con un po' di perplessità guardiamo a questa iniziativa che hanno preso in questi giorni. Prima di commentare ancora con l'avvocato Calì cosa potranno fare a questo punto le persone che sono rimaste vittime di questa situazione, voglio solo anticiparvi l'argomento di cui parleremo a partire dalle 11:40. Queste situazioni stressanti, oltre ad influenzare negativamente il nostro umore, perché spesso ci rovinano completamente la vacanza, sono un vero e proprio pugno nello stomaco. Il cuore guida le nostre azioni, la mente regola i delicati meccanismi che regolano la nostra vita, ma quel che è certo è che quasi tutto quello che di importante avviene nel nostro corpo ha a che vedere con l'intestino. Quando sta bene lui, stiamo bene tutti. Allora si potrebbe dire sicuramente così dell'intestino. Come sta il vostro? Ne parleremo dalle 11:45 con il dottor Luca Avoledo, 800 24 0024, anche per prenotarvi su questo argomento. Allora, avvocato Calì, adesso ammettendo che tutte le persone appunto che hanno smarrito i loro bagagli, la maggior parte di loro ne rientrerà in possesso a metà vacanza, quindi già primo danno è arrivato, no? Magari per qualcuno non arriverà neanche, la recupereranno una volta ritornati a casa dalle vacanze, perché può capitare anche questo, chi soprattutto è andato all'estero, figuriamoci che complicazioni per poterla rimettere praticamente in relazione al proprio proprietario. Allora, intanto, voi che tipo di iniziative state, come dire, immaginando di predisporre? Poi le racconto anche quello che hanno in mente di fare le associazioni dei consumatori, vostre colleghe. Ma noi abbiamo inviato oggi una lettera dall'Italia, questo diciamo è una, lo dico adesso, un'anteprima solo per noi. Un'anteprima solo, perché manderemo il comunicato fra un poco, alla fine della trasmissione. Noi chiediamo all'Italia di formulare un'offerta risarcitoria per tutti i passeggeri vittime di questi disagi. Riteniamo che questa sia una soluzione ragionevole e secondo me che potrà consentire di pervenire al risarcimento in maniera bonaria e senza strascichi giudiziari. Quindi insomma voi chiedete che l'Italia prenda intanto un'iniziativa spontanea di disponibilità all'indennità. Sì, un'iniziativa spontanea cui offre ai cittadini, a tutti i passeggeri una somma che determinerà l'Italia secondo quello che arriverà, fermo restando il diritto del passeggero di non accettare questa offerta qualora ritenga ad esempio che il danno che ha subito sia superiore a quella che è l'offerta di Alitalia. Naturalmente ci saranno sicuramente coloro che riterranno non congrua questa offerta, ma ritengo che moltissimi potranno ritenerla congrua e quindi potrebbero accettare. Anche perché bisognerà fare diverse istruttorie, tutte individuali, perché un viaggio da qui, non lo so, alla Sicilia è ben diverso di un viaggio che magari come dire, prevedeva di far star fuori un'intera famiglia, che ne so, in India, adesso parlo tanto per parlare, per tutto il mese, per cui qua è chiaro che i danni devono essere quantificati dal punto di vista economico in maniera diversa e quindi in via individuale. Certamente, ma su questo bisogna fare attenzione, perché i passeggeri devono avere a mente due scadenze importantissime che, se non osservate, rischiano di pregiudicare il loro legittimo diritto. Benissimo, quali sono? Allora, innanzitutto, nel caso di ritardata consegna del bagaglio, quindi per adesso il bagaglio è smarrito, non si sa che fine farà, potrà accadere che il bagaglio sarà ritardato successivamente. Allora, in caso di ritardata consegna del bagaglio, non è sufficiente aver fatto la denuncia in aeroporto all'ufficio Last and Found, bisogna inviare entro 21 giorni alla compagnia aerea un reclamo a mezzo raccomandata. Questo termine di 21 giorni decorre dalla data di effettiva riconsegna, quindi se me lo riconsegnano quando sono in vacanza o quando sono tornato a casa o dopo, allora in questo caso bisogna fare attenzione a che nel rapportino di consegna del bagaglio venga posta innanzitutto la data e che l'ora, magari, se possibile, ogni caso la data, e da questa data il passeggero deve spedire la raccomandata alla compagnia entro 21 giorni. Con che finalità questa raccomandata? La raccomandata ha la finalità di chiedere il risarcimento dei danni alla compagnia aerea. Se il passeggero non fa questa raccomandata, decade dal diritto. Cioè, questo è quando stabilisce la Convenzione di Montreal, che disciplina la materia, e quindi teoricamente può succedere che una persona che avrebbe tutte le ragioni di questo mondo per fare una richiesta e ottenere il risarcimento, se fa la raccomandata il 22° giorno, la compagnia eccepisce che è decaduto dal diritto. A quanto ammontano in genere questi risarcimenti, avvocato Calì? Allora, in base sempre alla stessa normativa, il diritto al risarcimento ammonta a circa 1.200 euro, sono 1.000 diritti di prelievo, sono 1.200 diritti di prelievo. Su questa materia c'è stato un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia Europea che ha fissato all'interno di questa cifra il limite massimo di indennizzo da parte di ogni singolo passeggero. Qui ancora stiamo parlando però della ritardata consegna, giusto? In ogni caso il bagaglio è rientrato in possesso del legittimo proprietario, perché poi la perdita definitiva è un'altra cosa. Sì, la perdita definitiva è un'altra cosa. Il bagaglio, se non viene poi più riconsegnato, anche qui il passeggero ha diritto al risarcimento. In questo caso non deve fare una raccomandata entro un determinato tempo, però in ogni caso qui c'è soltanto il termine di decadenza biennale. In questi casi ha diritto a formulare una richiesta di risarcimento e può, sempre con questo stesso limite, mettendo i beni che per esempio erano all'interno della valigia. Infatti. E poi naturalmente c'è un altro aspetto, che è quello relativo al danneggiamento del bagaglio, perché il bagaglio può anche arrivare a destinazione danneggiato. E qui il termine da osservare è anche inferiore, perché in questo caso, oltre a fare rapporti in aeroporto facendo constatare il danno prima di lasciare l'area aeroportuale, bisogna fare la raccomandata in questo caso entro 7 giorni, quindi un termine molto più breve, e come si può immaginare spesso magari uno può lasciare andare, quindi perde anche qui il diritto di risarcire il danno. Benissimo. Del bagaglio. Allora, abbiamo già dato intanto delle prime indicazioni ai nostri ascoltatori, naturalmente tutti si staranno facendo gli scongiuri affinché queste situazioni non dovranno appunto capitare. Peraltro è chiaro che poi tutti gli ascoltatori che ci stanno chiamando questa mattina, non è detto che debbano transitare per forza su Fiumicino, ma è anche vero che quello che è accaduto a Fiumicino in questi giorni, appunto, delle ripercussioni su altri scali lo ha avuto. Allora andiamo agli ascoltatori all'800 24 0024. Amedeo da Riccione non ha per nulla, mi pare di capire, transitato a Fiumicino, eppure ha avuto una disavventura ugualmente. Amedeo, buongiorno. Anzi, le indicazioni dell'avvocato. Sì, io ho transitato, ho viaggiato da Venezia per Copenaghen il 26 luglio e dunque è stato imbarcato il bagaglio sotto l'acqua, quindi è arrivato allagato a Copenaghen, ma completamente allagato. Ho fatto la mia vacanza comprandomi tante altre cose per i vestiti e poi al ritorno il 2 agosto il bagaglio è stato smarrito e non l'ho mai più ritrovato. Ecco. E ho fatto tutte le domande eccetera eccetera, però ancora sul sito non compare nulla, ecco. No, certo, poi si figuri in questo periodo con tutto quello che c'è in giro e aggiungiamo anche la contestazione. E quindi quanto deve, secondo lei, avvocato Galì, ragionevolmente aspettare per avere qualche risposta al nostro Amedeo? Ma diciamo molte volte le compagnie rispondono, hanno dei tempi diversi da compagnie. In ogni caso aspettare un 30 giorni dalla raccomandata e vedere se rispondono. Un consiglio che darei all'ascoltatore è che se la compagnia rispondendo chiede gli originali delle spese sostenute, è una richiesta pretestuosa che fanno le compagnie, perché gli originali non può pretenderli, può pretenderli successivamente, quindi mandi le fotocopie, perché se poi non si raggiunge un accordo transattivo e bonario e il passeggero sarà costretto a intraprendere un giudizio, non avrà più gli originali da produrre al giudice per dimostrare le spese sostenute. Quindi, quindi mandi le fotocopie dicendo che le saranno a disposizione degli originali se si raggiunge un accordo bonario. Ma lei pensi se noi possiamo avere, quando ci capitano queste cose, che per carità è una valigia, ci sono situazioni ben più gravi nel mondo, adesso è chiaro che diamo la giusta proporzione a tutto, ma a me, mi vado in vacanza, mi perdo, prima me la allagano, mi riempiono d'acqua la valigia, poi me la perdono, e pensiamo al povero Amedeo che deve avere pure tutta la lucidità di ricordarsi intanto di tenersi gli scontrini delle tre t-shirt che si è comprata a Copenaghen per appunto andare avanti ugualmente. Poi tornando deve ricordarsi di farsi la fotocopia degli scontrini per tenersi gli originali. Pazzesco, però. Grazie per avercelo ricordato. In ogni caso il giudice potrebbe liquidare in via equitativa, in virtù dei fatti che vengono raccontati, il danno valutando certo. Il caso concreto. Cuore e denari. Ho fatto scalo a Grado la domenica di Pasqua. Noi invece e molti altri ascoltatori probabilmente hanno fatto scalo a Fiumicino in questi giorni. Non è stato certo uno degli spettacoli migliori quello degli addetti appunto al trasferimento dei bagagli da una parte all'altra dell'aeroporto, addetti all'Italia che hanno riservato a tutti i passeggeri in transito appunto allo scalo romano. Pensate che tra l'altro tra questi passeggeri in transito c'era proprio anche l'amministratore delegato di Etihad, Hogan, giunto a Fiumicino in vista dell'incontro forse definitivo con il vertice dell'Italia che domani dovrebbe portare appunto alla firma conclusiva di questo accordo per l'integrazione fra le due compagnie. E siccome è proprio questo il motivo per cui i dipendenti contestano, certo che tutta questa situazione è davvero dell'originale. Cosa è successo? Ve lo abbiamo ben raccontato di nuovo nella prima parte del programma. Decine di carrelli con centinaia e centinaia di bagagli, in media 30 per ogni carrello, con l'etichetta AZ di provenienza e destinazione, per lo più con sigle di voli del 3-4 agosto, a mucchiare anche alla rinfusa nel padiglione installato 2 anni fa nello scalo della capitale per, ironia della sorte, velocizzare il transito dei colli della nostra compagnia di bandiera. E allora cosa fare in questo caso e in tutti gli altri casi in cui dopo un viaggio o alla partenza, prima di un bel viaggio, ogni compagnia ci può smarrire la valigia? Ne stiamo parlando questa mattina con l'avvocato Carmelo Calì della Confconsumatori, ma vi abbiamo fatto sentire nella prima parte di Cuore Denari anche l'intervista al funzionario del l'ENAC, l'ingegner Carrabba. Adesso sentiamo la seconda parte, ci dà qualche indicazione in più su come l'ENAC monitorerà prossimamente questa situazione e anche i suoi suggerimenti sulle tutele per i passeggeri. Sicuramente è previsto oggi la normativa. Una volta che tu, tra l'altro, anche se tu ricevi il bagaglio, hai 21 giorni di tempo. Tu prima di uscire devi fare la denuncia agli uffici Lost and Found delle compagnie aeree oppure del gestore aeroportuale. Quindi prima di uscire dalla sala dove si prendono i bagagli, quindi riscontri che il tuo bagaglio non è arrivato, fai la denuncia. Dopodiché devi seguire una procedura consegnando alla compagnia aerea lo scontrino, tutto quello che praticamente è relativo al bagaglio, e dopo 21 giorni devi conservare gli scontrini che tu ricevi dai negozianti, per esempio compri i generi di prima necessità, in termini di abiti per esempio, mi viene in mente, no? Certo. E quindi poi i passeggeri possono trovare queste indicazioni anche sul sito dell'ENAC. Certo, l'abbiamo detto più volte, il problema è però ingegnere che in questo caso questi disagi per questi passeggeri sono stati provocati non dal fatto che siamo in estate, che il flusso di passeggeri negli scali internazionali è particolarmente intenso. Qua c'è una situazione ben diversa, secondo lei solleveranno anche le associazioni dei consumatori, come dire, un problema in più, perché qui c'è stata una situazione di disagio generalizzato provocata da questo sciopero dei dipendenti appunto di Alitalia, quindi per Alitalia non vorrei veramente, adesso non le chiedo di appunto commentare le vicende di questa società, ma oltre al danno la beffa, mi verrebbe da dire. Direi di sì, come ha detto lei giustamente, non si può ovviamente non tenere conto di quella che è la situazione di lavoratori che possono dall'oggi al domani perdere il posto di lavoro, ma bisogna anche tenere conto di quello che poi significa in termini di ricaduta economica anche sul vettore in un particolare momento di crisi. Ovviamente è difficile contemperare tutti gli interessi. Ci rimettono i passeggeri, ci rimette la compagnia, ci possono rimettere anche i lavoratori. È una situazione veramente delicata e molto complessa. Comunque la vostra paga tra virgolette il passeggero, l'utilizzatore finale, che a volte anche ovviamente non comprende perché si debba trovare in questa situazione, però ecco, non è una situazione del trasporto aereo soltanto, ma sappiamo tutti che quando c'è una situazione di crisi può essere anche in tanti altri settori. Manterrete operativa la vostra task force anche per le prossime settimane, così per vigilare? Sì, la direzione aeroportuale di Fiumicino si è attivata in questa direzione, quindi diciamo gli input che sono arrivati dalla direzione generale sono chiari. Noi stiamo collaborando appunto per cercare di risolvere la situazione, trovando anche delle soluzioni alternative, ma devo dire che da questo punto di vista sia la compagnia aerea che il gestore aeroportuale di Fiumicino stanno dando una grossa mano nella difficoltà evidente in cui ci troviamo tutti in questo momento. Io la ringrazio molto. Allora, intanto direi di non volerla più sentire per tutta l'estate per le questioni di cui stiamo parlando questa mattina, poi magari per salutarci volentieri. Magari per fare un bilancio dopo questi giorni, ci sentiamo a settembre. Volentieri, magari a fine agosto quando noi riprendiamo la nostra trasmissione, che adesso va in pausa per 2 settimane, quindi immagino che lei non si sposta di lì, insomma, deve mantenere... No, io sono proprio vicinissimo a Roma, guardi, quindi sono pronto per rientrare. La ringrazio moltissimo, buona giornata, ingegnere, a presto. Abbiamo lasciato anche queste battute finali con l'ingegner Carrabba, ma che in ogni caso appunto ha rassicurato che continuerà a monitorare sulla situazione di Fiumicino. Avvocato Calì, torno da lei invece e le propongo alcune testimonianze dei nostri ascoltatori. Sentiamo Roberto da Roma. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io ho una testimonianza, in realtà anche un quesito. La prima testimonianza è relativa al volo Fiumicino-Düsseldorf dello scorso aprile, devo dire con Lufthansa, quindi arrivo a Düsseldorf e trovo la mia valigia squarciata, aperta in due proprio, faccio un rapido controllo, per fortuna non mancava nulla, e mi rivolgo all'ufficio reclami per presentare insomma la mia denuncia, la mia protesta. In realtà il funzionario Lufthansa che era lì, la signora che era lì, va nel retro dell'ufficio e mi porta fondamentalmente una valigia nuova. Oltretutto? Sì, ho dovuto firmare le varie liberatorie, che non avrei presentato altre proteste, altre denunce, eccetera. Ah, questo mi viene da dire che sono abituati a far passare, a rovinare in questa maniera le valigie, però, perché si hanno addirittura valigie pronte per chi si imbatte in queste disavventure, Roberto. Va bene, questa è una vicenda che si è conclusa bene. La sua domanda? La mia domanda è se questi ritardi finiscono per influire anche sulla consegna dei bagagli delle altre compagniere. Devo essere sincero, ma io non ho capito bene, voglio dire, le difficoltà all'Italia, che avrà un suo servizio di handling, mi pare si chiama proprio l'Italia Handling, influiranno poi, che so io, su Air France, British Airways? Beh, certo che se ne accatastano nello scalo di Fiumicino migliaia dei passeggeri all'Italia, è abbastanza plausibile immaginare, avvocato Calì, che ci sia una ripercussione poi generalizzata, ma questo l'ha detto anche Carrabba prima, già su altri scali le conseguenze si sono avvertite, no? Avvocato? Sì, certamente, questo c'è un problema a cascata e quindi poi alla fine bisogna vedere, perché poi molto oltre il passeggero, qui c'è il problema del concetto di tratta aerea che comprende tutti gli scali intermedi, cioè però il passeggero deve fare un unico biglietto, se invece il passeggero ha fatto più biglietti con più compagnie non possiamo ritenere che c'è una tratta, perché sono più, diciamo, sono pezzettini di tratte con più compagnie. Quindi il problema qui, la compagnia finale potrebbe dire tu dovevi imbarcare, non so, a Berlino il tuo bagaglio che all'Italia doveva scaricare a Berlino, quindi io non posso avere responsabilità perché la colpa non è, quindi poi bisogna valutare. Se invece è all'Italia che faceva uno scalo a Berlino, a Francoforte o poi chiunque dovunque vogliamo, allora è chiaro che all'Italia si era impegnata a far arrivare in America i bagagli anche se c'era uno scalo europeo partendo dall'Italia. In quel caso la tratta è unica. Costantino ci scrive al 349-238-6666. Al passaggio tra Alitalia e CAI mi persero le valigie sia su Roma New York che al ritorno. Ha fatto proprio bingo, povero Costantino. All'andata rimborso lampo del vettore partner Air France. Al ritorno 7 mesi di telefonate al call center di CAI che non aveva nessuna visibilità dei bagagli persi e praticamente ti rimanda sistematicamente a 15 giorni. La valigia la ritrovai da solo recandomi tutti i giorni che mi era possibile al deposito di Fiumicino. Aggiungerei che lo scalo romano è il primato di bagagli smarriti in Europa quando opera normalmente. Effettivamente in molti fanno anche questo, ci sono delle valigie lì abbandonate in questi depositi, no? degli scali di tutta Italia, di tutto il mondo, avvocato Calì, dove spesso ci sono proprio lì dei figli di nessuno e ognuno se li va a ricercare. Adesso speriamo naturalmente che le persone che hanno avuto le disavventure di Fiumicino di questi giorni non debbano anche subire anche questo. Un ascoltatore chiede se invece della raccomandata va bene anche la mail composta certificata per muovere tutte le contestazioni appunto alle compagnie se perdiamo il bagaglio. Avvocato? Ma dovrebbe, la posta certificata ormai ha pieno valore, quindi dovrebbe andare bene. Però lei dice dovrebbe. A posta certificata, poi magari siamo in una fase transitoria. Fate la raccomandata che è meglio. Le compagnie fanno delle eccezioni raccapriccianti molto volte, quindi diciamo, potrebbero anche contestare la posta certificata. Esatto, comunque, infatti. Allora certo, se... va bene. Se la carta dei diritti del passeggero dice raccomandata, fate la raccomandata. Voi? Poi dico, noi da questo punto di vista diciamo che purtroppo ci sono compagnie che danno tempi di risarcimento brevi, altre che perdono molto più tempo, cioè quello che dicono i passeggeri è quello con cui noi quotidianamente ci scontriamo, appunto poi spesso la sordità nel non rispondere neanche, spesso fare delle eccezioni pretestuose chiedendo documenti eccetera eccetera. Allora noi su questo caso, per evitare che anche in questa occasione accada la stessa cosa, noi aiuteremo i passeggeri secondo due opportunità. La prima è quella, innanzitutto abbiamo la richiesta che facciamo oggi all'Italia di un'offerta. In ogni caso attiveremo la procedura di conciliazione, perché abbiamo sottoscritto insieme con le altre associazioni un protocollo di conciliazione con all'Italia e quindi porteremo queste singole pratiche dei singoli passeggeri nella procedura di conciliazione, dove un conciliatore dell'Associazione dei Consumatori e un conciliatore dell'Italia tratteranno. È una procedura gratuita per i passeggeri e quindi riteniamo che questo potrebbe favorire. Se naturalmente anche la procedura di conciliazione non dovesse avere un buon esito, allora andremmo davanti al giudice per chiedere che la compagnia venga condannata al risarcimento nei confronti. Certo che sto pensando ai manager di Alitalia che, oltre all'attesa per la firma di domani dell'accordo con Etihad, adesso devono anche mettersi a pensare eventualmente ad una iniziativa di risarcimento. Noi condividiamo appunto la posizione della Confconsumatori per in qualche maniera risarcire le persone. No, vabbè, non che sia solidale. bisogna capire una cosa, che i passeggeri sono il primo insostituibile azionista di riferimento di ogni compagnia aerea e quindi di Alitalia e del suo futuro partner. Quindi se non si capisce che il primo azionista è il passeggero, allora si vedranno sempre i passeggeri come delle persone che scocciano chiedendo cose che dell'altro mondo. Ecco. Purtroppo, cioè, perché la fidelizzazione parte anche da queste pratiche. È la qualità del servizio, è evidente, certo, avvocato. Certo. Allora, siccome tutte queste situazioni ci fanno venire il mal di pancia, adesso prima di sentire ancora un paio di telefonate molto veloci, volevo salutare l'ospite che ci farà compagnia nella seconda parte di Cuore Denari, avvocato Luca Voledo, buongiorno. Dottor Luca Voledo, avvocato ancora no. Buongiorno. E comunque, con questa abbiamo capito che ora Kim ne vado in vacanza. Povera Nicoletta, se sente la trasmissione di oggi, proprio mi disereda completamente. Dottor Luca Voledo, perfetto, volevo chiederle, le è mai capitato di smarrire qualche valigia, di avere un mal di pancia per questo? Mal di pancia no, valigia smarrita sì, ritrovata per fortuna in fretta. Ottimo, e allora vede, ha fatto l'avvocato evidentemente, si è trasformato in avvocato da dottore nel posto in cui la valigia è arrivata in ritardo. Volevo sentire Caterina da Roma. Caterina, buongiorno. Buongiorno. Un attimo, una volta però Nicoletta l'ha chiamata dottor colesterolo. Esatto, sì, quindi lei proprio ormai è la nostra vittima preferita di tutto questo. Caterina, ci racconti velocemente perché poi devo cambiare rapidamente tema. Ma diciamo che io lavoro in un'agenzia di viaggi. Sì. E quindi diciamo che spesso e volentieri ai nostri clienti succede, sì, che gli vengono persi i bagagli, non solo a Roma, devo essere sincera. No, ma guardi, succede con molta frequenza. Non vogliamo accanirci, ma succede ovunque, esatto, si figuri. Non diamo la colpa soltanto a Fiumicino. Quindi noi viviamo a Fiumicino, ok, succede, ma in tutto il mondo. I bagagli volano da Honolulu in poi. Ma sì, poi su viaggi lunghi, quando si devono fare molti scali, è evidente, Caterina, c'è chi parte scalo, anche... Col doppio scalo è garantita la perdita del bagaglio. Va bene. Quindi noi consigliamo al nostro cliente di incelofanare con il cellophane, quindi l'assicurazione e la valigia. Nell'ultimo giro di cellophane mettere un bellissimo foglio A4 con su scritto un cognome e in grande un numero di telefonino. Benissimo. Perché in qualsiasi scalo arrivi la valigia, chi la prende è obbligato, visto che il cellophane assicura la valigia, a chiamare quel numero e a dire: mister, dove si trova lei? Caterina, grazie molte per questo suggerimento che direi di totale buonsenso, e però non è scontato, perché molto spesso noi non ci pensiamo, appiccichiamo lì quella microscopica etichetta dove mettiamo il nostro nome, magari la località di destinazione, il numero di telefono, invece magari impegniamoci a mettere un'etichetta un po' più visibile e importante. Grazie a Caterina, grazie all'avvocato Calì, a presto, buone vacanze, ma lei ci avrà da fare, avvocato. Pronto? Sì. Pronto? Un secondo solo, noi abbiamo messo a disposizione di tutti i passeggeri un indirizzo di posta elettronica di servizi.aerei@confconsumatori.it, e a chi ce lo richiederà manderemo anche uno schema di lettera da inviare alla compagnia per richiedere risarcimento. Grazie, lo mettiamo su Facebook, avvocato Calì. A presto, buona giornata. Buon traffico. Giorno. Cuore e denari. Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto, mi è venuto all'improvviso, ma chissà, chissà perché. E pensare che ho mangiato stamattina. Dottora Voledo, che io sul campo ho promosso ad avvocato, lei anche adesso avvocato deve fare l'avvocato, come dire, del diavolo oggi, quello della nostra pancia. Tra l'altro un tema che mi piace molto, perché stavo così un po' immaginando quali, anche per curiosità, domande potessi farle, pensando appunto a me stessa, che sto seduta moltissimo durante la giornata, ed effettivamente questo è uno dei fattori di come dire, disturbo forse più importanti, di questa pancia sempre gonfia che ci dà fastidio, che ci sentiamo tirare. Io ho un effetto proprio la sera, tipicamente è questo, e poi le chiederò allora ragioni, se è come dire, un sintomo legato magari alla cattiva alimentazione o se la sedentarietà in qualche maniera influisce. Sicuramente i passeggeri di Fiumicino in questi giorni hanno il mal di pancia per altri motivi, e la pancia può essere un po' anche anche considerata per molti questo bagaglio che ci portiamo davanti, dottor Avoledo, non esteticamente non bello. Certo, sicuramente se la pancia comincia a farsi sentire in maniera, come dire, evidente, con gonfiori addominali, alterazioni dell'alvo, come dicono quelli che parlano bene, cioè alterazioni nella frequenza e nella modalità con cui si va in bagno, cose che capitano tra l'altro molto spesso in questo periodo, perché d'estate il cambiamento di aria, come si suol dire, il cambiamento di ambiente, il cambiamento di bagno, perché qualcuno quando cambia bagno ha degli scompensi a livello di regolarità intestinale. Le donne tipicamente che si bloccano proprio. Può capitare, può capitare. Le cause sono davvero tante, perché l'intestino è un bersaglio, come dire, vulnerabile a tantissimi fattori stressogeni, la cattiva alimentazione, anche un modo, una buona alimentazione ma dosata male. Per esempio pensiamo alla masticazione, se mastichiamo male possiamo mangiare anche i cibi più sani del mondo, ma scateniamo nell'intestino delle reazioni a carattere infiammatorio, certo, di proliferazione di flora batterica nociva, perché il nostro intestino non è fatto per gestire il merluzzo, è fatto per gestire le proteine di cui è fatto il merluzzo, quindi se noi non mastichiamo a sufficienza arrivano nell'intestino pezzi di mucca, non le proteine, e il nostro intestino non sa, certo, come trattarli, quindi gonfiore, produzione di alcol, fermentazione eccetera eccetera. L'aria condizionata disturba? Per alcuni soggetti sì, per altri assolutamente ininfluente. Sono quei soggetti molto sensibili il cui intestino reagisce in maniera molto eclatante a le variazioni di temperatura, il freddo, i colpi di freddo. Certo. Allora vorrei invitare i nostri ascoltatori ad intervenire sull'argomento, magari facendolo con un gioco che facciamo molto spesso quando c'è Nicoletta Carbone, quello del se fosse una persona, la pancia intesa come intestino sarebbe molto sensibile tanto da condizionare il nostro benessere o viceversa il nostro malessere. Allora come lo descrivereste? 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione, un po' così date un'occhiata alla vostra pancia, magari ascoltatela mentalmente, sentite un po' che cosa vi suggerisce in questo momento. Io so, dottor Avoledo, che quando non sto seduta 10 ore al giorno davanti al computer, magari invece in vacanza, anche senza fare particolare attività fisica intensa, ma semplicemente il fatto di non star seduta tante ore mi appiattisce immediatamente. Sicuramente la sedentarietà peggiora tantissimo, perché il fatto di muoversi mette in moto, anche fare una vera e propria ginnastica all'intestino, ma non dimentichiamo anche il fatto che l'intestino è, secondo cervello, tutte queste cose, molto vulnerabile agli stress psicoemotivi, e l'attività fisica, il movimento, se non anche la vacanza in sé, ha degli effetti detensivi molto forti, e quindi in grado di migliorare la funzionalità intestinale. Quindi è un catalizzatore di somatizzazione. L'intestino importante è il bersaglio tipico, insieme allo stomaco e più in generale a tutto l'apparato digerente, delle nostre somatizzazioni, cioè delle nostre emozioni che diventano carne, corpo. Allora, il caldo, il viaggiare, il cambiamento di abitudini, come ci diceva il dottor Avoledo, alimentazione diversa, possono influire sul benessere della nostra pancia. In vacanza il nostro intestino può perdere qualche colpo? Assolutamente sì, come dicevamo, può perdere qualche colpo, quindi chi lo sa può premunirsi e organizzarsi per tempo con una serie di rimedi. In genere ce la si cava con rimedi naturali, quelli che piacciono spesso a noi, quindi erbe, sostanze che aiutano l'intestino in maniera naturale, o comunque magari l'assunzione di più generose quantità di frutta, di verdura, di fibre solubili e insolubili, quindi acqua, che d'estate fa bene da tanti punti di vista, anche per rendere le fibre più efficaci nel loro lavoro. Certo. Ho avuto un interessante dibattito ieri sera a cena con alcuni amici, parlavamo del fatto che, anzi non ieri sera, l'altro giorno con un altro mio amico che ha qualche problema di digestione in questo periodo, e lui dice: eppure io mangio un sacco di frutta a pranzo, sostituisco il pranzo con tanta frutta eppure non mi sgonfio. E allora gli ho detto: guarda che faccio cuore denari da quasi un anno, e comunque non bisogna esagerare, perché la fermentazione è lì in agguato. Giustissimo. In alcuni casi la fibra, che è la fibra è croce delizia, la fibra è benefica per l'intestino. In soggetti molto sensibili, io mangio un'insalata e mi dà fastidio, la colpa spesso non è dell'insalata, è l'intestino magari un po' sensibilizzato. Al di là del fatto che sostituire il pranzo con la frutta non mi sembra un'idea che nel lungo periodo abbia un significato di salute salutare, sicuramente è vero che l'eccesso di fibra, soprattutto in soggetti che non sono abituati a mangiare, non mangio più frutta e verdura da un sacco di tempo, o ricomincio, o mangio cereali integrali integrale sempre mangiato i cereali raffinati può dare dei fenomeni di difficoltà intestinale a partire dalla pancia gonfia. Allora andiamo a, come dire, a mettere alla prova i nostri ascoltatori. Faccia lei loro qualche domanda per vedere se trattano correttamente il proprio intestino. Li invitiamo a fare qualche conto esaminando la loro giornata. Magari non si sono mai fermati a pensare a come dire, delle cose banali che possono succedere o che fanno magari inconsapevolmente. Per esempio, il primo conto che chiederei agli ascoltatori di Cuore Denari di fare è un conto di quanto approssimativamente secondo loro masticano. Io poco, glielo dico già. 20 volte, 30 volte, no. 5 volte. No, io sono proprio un imbuto, quindi ecco qua. Subito messa alla prova la Roshan. Vogliamo dire perché è importante o lo diciamo dopo? Diciamolo subito. Allora, masticare, come dicevamo, è importante per evitare delle fermentazioni eccessive, indesiderate, per far arrivare appunto nell'intestino delle sostanze non adatte ad essere gestite dall'intestino. Quindi le stazioni, la bocca è una stazione digestiva, lo stomaco non ha i denti e l'intestino non ha la saliva. Bella questa immagine della stazione digestiva. Questo vale per tutti i cibi, stavo immaginando la differenza tra un pezzo di carne e una patata lessa. Nel senso, la masticazione è assolutamente indispensabile perché l'intestino è fatto per gestire le particelle fondamentali di tutti i cibi, che sono appunto le proteine, i glucosi, i glucidi. Alcune sostanze come gli amidi cotti, penso in particolare alla patata, addirittura c'è un enzima in bocca che si chiama ptialina che è deputato alla digestione degli amidi cotti. Quindi se non mastico a sufficienza, non solo l'atto meccanico della frantumazione, ma il fatto stesso di impastare il cibo con la saliva, vuol dire che poi lo stomaco ha, come dire, meno risorse, si trova un cibo non ben predigerito e poi lo sa gestire solo con gli enzimi che c'ha lui, non quelli che ci sono in bocca. E quindi insomma prendiamoci il dovuto relax anche a pranzo. Il suo collega Atilio Speciale dice sempre la posata si chiama posata proprio perché va posata. Giustissimo. Tra un boccone e l'altro. Posiamo le posate e verifichiamo che se mangiamo in piedi, come una signora che è venuta in studio da me l'altro giorno che mangiava in piedi, c'aveva la pancia gonfia, o se non dedichiamo almeno 20-30 minuti ad ogni pasto, sarà difficile che mastichiamo sufficiente. C'è già c'è un messaggio di un ascoltatore, Andrea, al 349-238-6666, che racconta, questo è un tema che abbiamo fatto qualche giorno fa, parlando in termini generali di questa moda che noi abbiamo suggerito di lasciare alle star di Hollywood, che comunque devono essere sempre magri come dei chiodi, tutti quanti. L'ascoltatore ci racconta, insomma, sostituisco il pasto 2,5 con degli integratori perfettamente bilanciati. Adesso chiaramente qua dovrebbe essere un po' più dettagliato, ma insomma, per chi sostituisce la dieta, anche per favorire la digestione e gonfiare meno la pancia con i beveroni che vanno tanto di moda, dottora Voledo. Ma personalmente non mi trova favorevole. Non trovo sensato sostituire il cibo, che è una sostanza che siamo fatti per assumere, la nostra sostanza vitale. Non capisco il senso che possa avere sostituire il cibo con qualcosa. Semmai gli integratori, io sono a favore degli integratori, ma integrano, come dice la parola, non sostituiscono. Il concetto di sostituzione del pasto trovo che sia francamente aberrante per quello che mi riguarda. Allora, abbiamo fatto la prima domanda sul siamo sicuri di masticare abbastanza e fate un conto di quanto masticate a pasto. Numeri li diamo dopo o vogliamo dare anche delle indicazioni? Lei che cosa preferisce fare? Allora, siccome dobbiamo andare in pausa, facciamo tutto dopo. Va bene. Lo ordino io questo modo di fare. Intanto Laura Vanossi si sta sbracciando, però le anticipo già che vorrei rispondere ad Anna che chiede se problemi intestinali possono provocare stanchezza. Cuore e denari. Oh, grazie Paolo. De nada. Con tutta questa deliziosa frutta fresca mangerei quello schifo di budino per l'intera vacanza. È l'unica cosa della dispensa che è più che sicura. Vedete? Prodotto a Poughkeepsie. Io non voglio rischiare. È un resort a 5 stelle. Siamo in Messico. Ed eccoci tornati insieme nella prima parte. Ci siamo dedicati alle disavventure che hanno subito i viaggiatori che stanno andando in vacanza vittime dello sciopero bianco messo in atto dai dipendenti di Alitalia. Ora nella seconda parte di Cuore Denari invece parliamo della nostra pancia più o meno in vacanza. In studio qui con noi il dottor avvocato Luca Voledo. Adesso sto continuando a scherzare, naturalmente, naturopata, ci sta aiutando a capire come poter, se siamo ancora in tempo peraltro, andare in vacanza con il ventre piatto, che è, come dire, il sogno di tutte noi donne, ma anche naturalmente dei ragazzi e dei signori. Allora, ci siamo cimentati prima in un simpatico esercizio che in genere piace molto ai nostri ascoltatori, quello delle domande. Diamone qualcosa. Esattamente. La prima, magari un riepilogo veloce. Siamo sicuri di masticare abbastanza? Esatto. Quanto masticate? Quanta fibra mangiate? Sapete dove si trova la fibra? Quanti bicchieri d'acqua bevete ogni giorno? Quindi fermatevi a pensare, a fare una lista come quella della spesa. Quante volte all'anno vi capita di prendere fermenti lattici? E poi vedremo magari anche perché è importante. Quante ore trascorrete seduti come Deborah al giorno? Troppe, direi. E quanto spesso durante la giornata, secondo voi, la vostra mente è preda di tensione e nervosismo e non ha dei momenti di reset, di riposo? Magari anche quando dormite la mente continua a pensare. Perché si scarica tutto lì? Perché spesso una mente iperattiva si riverbera anche sulla digestione. Allora, avete preso appunti? Naturalmente, se non ve le ricordate tutte le domande che abbiamo fatto, chiamateci, in ogni caso noi ve le ribadiamo e vi facciamo queste domande appunto live, in diretta. Nel frattempo andiamo ai nostri ascoltatori, cominciando con Luigi da Bologna, che eccolo qua, insomma, ci spiega una sintomatologia molto molto classica. Luigi, buongiorno, e sentiamo un po' se però magari il dottor Avoledo ha bisogno di farle delle domande un pochino più approfondite. Eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ultimamente soffro di gonfiore allo stomaco. Quindi è recente? Sì, è recente, da quando ho cominciato a mangiare verdure durante il pasto, la classica insalatona. Poi ad un certo punto ho deciso di smettere perché mi sentivo sempre estremamente gonfio. Allora ho cambiato alimentazione al mezzogiorno, quindi al mezzogiorno mangio sempre un riso con un po' di carne bianca, eccetera, eccetera, ma il gonfiore vedo che persiste. Mi sento sento un malessere generale, tipo stanchezza, spossatezza, eccetera, e dire che mastico abbastanza. Bevo un litro di latte, un litro di acqua al giorno circa, però ahimè ho una vita abbastanza sedentaria. Luigi, tra l'altro ci aggiungo anche ha detto nel finale, proprio ci ha lasciato anche molte preoccupazioni, Luigi, magari sono anche quelle un po' a concentrarsi lì e a gonfiare. Aggiungo io, dottore, dopo i 40 a me sono scoppiati tutti i malesseri. L'età comunque un pochino... Meglio 20 che 40? Chissà come mai. Allora, per rispondere a Luigi, giusto, il nostro ascoltatore, ha toccato praticamente tutti i temi che aveva anticipato noi, cioè i tanti fattori che possono andare a, come dire, disturbare la funzionalità dell'intestino o dello stomaco di tipo digestivo. Vai te a sapere quale, nel caso di Luigi, può avere la predominanza, e quindi appunto è chiaro che deve parlarne con il suo medico, con qualche professionista. Ha toccato il tema della verdura, ha cominciato a mangiare tanta verdura, e come dicevamo prima, per chi ne mangiava magari poca, l'eccesso di fibra tutte insieme può dare fastidio. Poi questa cosa non si è risolta quando ha passato a mangiare riso e altri cibi. Ci possono essere delle specifiche ipersensibilità ad alcuni cibi che possono dare fastidio, provocare fenomeni infiammatori, provocare gonfiore, quindi anche in questo caso andrebbe meglio indagata questa cosa. La sedentarietà, anche qui avevamo visto prima che è un fattore importante di perturbazione, di rischio di perturbazione digestiva, e le preoccupazioni che ha accennato in coda sicuramente sono le preoccupazioni, alterano le secrezioni acide dello stomaco e le secrezioni basiche del duodeno, cambiando proprio il pH dell'interno del tratto digerente, ma non solo, cambiano la motilità intestinale. E quindi anche il resettarsi, poi il termine che ha utilizzato lei prima, non è che sia immediato, anche se noi troviamo la causa scatenante del nostro gonfiore, del nostro problema, della nostra infiammazione intestinale, anche togliendo completamente l'alimento che ci infastidisce, non è che nel giro di due giorni poi si riassesta tutto. Quanto tempo ci vuole? Dipende appunto da qual è la causa. Molto spesso c'è un periodo piuttosto lungo. Se per esempio pensiamo a uno stress, quando le perturbazioni appunto di tipo emotivo si riverberano sullo stomaco, sull'intestino, anche quando lo stress viene meno, molto spesso si hanno anche settimane, se non mesi, in cui la risposta dell'intestino non è perfetta. Certo. Ecco, Anna mi richiama all'ordine, l'ascoltatrice, e chiedeva appunto la questione della stanchezza che abbiamo introdotto prima. Adesso io non riesco a recuperare la domanda. Eccolo qua, problemi intestinali possono provocare stanchezza? Dipende dal problema intestinale, ma sì, perché prima accennavamo le funzioni un po' stupefacenti che ha l'intestino, che è un organo centrale. L'intestino ha funzioni sorprendenti. Da un lato consente l'assorbimento dei nutrienti che servono alla vita, dall'altro una barriera fisica e immunitaria a microrganismi, sostanze allergizzanti, tossine, eccetera eccetera. Quando ci sono dei fastidi di tipo digestivo protratti nel tempo, può venire meno o non essere perfetta la funzione di assimilazione, e al contrario possono passare all'interno del torrente sanguigno delle sostanze che non dovrebbero passare, dando tutta una serie di problemi, tra cui stanchezza, disturbi di carattere psicoemotivo, allergie, eccetera eccetera. Assolutamente possibile, certo, questa cosa. Quindi cosa dovrebbe fare secondo lei, Anna, per approfondire che cosa le dà fastidio e che cosa le provoca questa stanchezza che sta diventando cronica? Sicuramente rivolgersi appunto al medico che saprà dare le indicazioni giuste. In questi casi, se il sospetto è che l'intestino non funzioni bene, anche passare a una serie di trattamenti specifici per, certo, il miglioramento del benessere intestinale. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Cerchiamo candidati per rispondere alle domande che ha posto il dottor Avoledo. Nel frattempo un'ascoltatrice, Carmen, chiede chiarimenti sulla questione dei fermenti lattici, così magari rispondiamo già. Bel tema questo, chiede se si prendono a stomaco pieno o a stomaco vuoto e se fanno bene per i gonfiori. Magari qualche volta proprio anche un virus intestinale, in realtà, più che svuotarci, ci lascia questo senso di gonfiore, no? Al contrario. Sì, fermenti lattici, che è un termine un po' improprio, adesso si usa più preferibilmente il termine probiotici, che è un termine comprensivo, perché non tutti i fermenti producono acido lattico. Sono secondo me un toccasana per l'intestino. In chi ha problemi io suggerisco di fare almeno un paio di trattamenti all'anno, di un paio di mesi, con dei probiotici di mantenimento, per chi soffre di colite, di gonfiori. Quindi non dobbiamo aspettare la famosa maledizione di Montezuma per chi va in Messico. Quello è un caso specifico in cui c'è la classica diarrea del viaggiatore. Esatto, che non poteva essere più chiaro di così. I fermenti lattici vanno presi, diceva l'ascoltatrice, a stomaco vuoto, a stomaco pieno. Sì. Nella maggior parte dei casi ormai sono fermenti lattici gastroresistenti, resistenti agli acidi, e quindi possono essere presi dello stomaco, essere presi in qualunque momento. Per non sbagliare, o quando si abbia il dubbio che non siano gastroprotetti, è meglio prenderli a stomaco pieno, perché lo stomaco pieno tampona l'acidità dello stomaco, che potrebbe inattivare questi probiotici. Sono molto utili, possono avere anche degli effetti collaterali se presi in eccesso, in particolare nel gonfiore, se mi sembrava il problema dell'ascoltatrice, perché l'eccesso di fermenti lattici può dare alcuni problemi di gonfiore, addirittura anche di stitichezza. Ma se si prendono ben dosati, in quantità opportune, sono in genere un toccasana. Come per tutte le cose, insomma, il dovuto equilibrio. Carlo, da Correggio, è un appassionato di peperoncino e anche piccante, ci dice: che rischi corre l'intestino per chi ama cucinare con livelli di peperoncino piccante, anzi precisa, decisamente piccante? In linea di massima nessuno, a meno che non ci sia qualcuno che ha notato che con le spezie in particolare, non so, col peperoncino, il suo intestino comincia a rispondere male dal punto di vista di motilità o abbia qualche altro fastidio. Ma in linea di massima sono alimenti che possono essere addirittura benefici. Il peperoncino è stato persino sdoganato e rivalutato per quello che riguarda anche le problematiche di tipo gastrico, che una volta diceva brucia lo stomaco, le mucose. È chiaro che quando uno ha un'ulcera l'eccesso di peperoncino può non andare bene, ma addirittura degli effetti antinfiammatori e utili, per esempio, contro l'Helicobacter pylori. E quindi, insomma, Carlo, quantomeno poi veda un po' lei se baciare la sua signora con insistenza dopo essersi così cimentato nella preparazione di un piatto ricco di peperoncino piccante. Un'altra domanda era molto interessante, quella di un ascoltatore, credo, che appunto racconta che si sente gonfio dopo aver mangiato qualunque cosa, o l'insalata, la carne, la pasta, il cracker. Mi gonfio lo stomaco, quindi qui andiamo ad un livello precedente l'intestino, come se avessi mangiato un toro intero e non sono grasso. Ma il grasso non c'entra alcunché, ci sono persone che il grasso e il gonfiore sono due cose completamente diverse. Anche qui è difficile rispondere a quale può essere la causa. Quando uno dice mangio qualunque cosa e mi gonfio, andrebbe davvero molto bene indagata, perché è difficile che qualunque cosa possa gonfiare. Si ha probabilmente una situazione prima dell'ingestione del cibo che fa sì che qualunque cosa non venga bene tollerata, ma di solito solito non è la foglia di insalata. Certo. Anche qua, appunto, verificare insieme a un professionista quali possono essere le cause scatenanti di questo gonfiore. Ah, tra l'altro, un'altra cosa interessante, vedo che qua molti ascoltatori si sono un po' copiati nella domanda, il tema del bere, quando e come, perché molti suoi colleghi appunto suggeriscono di bere lontano dai pasti, peraltro non di bersi tutto il litro d'acqua necessario in una giornata in un unico momento, ma chiaramente diluire, dilazionare nel corso della giornata, ma bere molto durante il pasto è corretto o è una questione individuale? Anche qua io sono molto per l'individualità, come dicevamo prima, quindi se non avete nessun tipo di fastidio, bevete quando cavolo vi pare. L'importante scusi che rido, ma Peter Bescapè dice tanto vino altro che tanta acqua. Quindi per chi non ha fastidi di sorta, non stia a contare i momenti o a guardare, beva quando vuole. Per chi invece ha delle problematiche di tipo digestivo, anche di tipo gastrico, bere durante i pasti può essere controproducente. Soprattutto bere tanto, un pochino è necessario bere, ma bere per mandare giù il boccone, come dico io, piuttosto mastica meglio e bevi meno. Bere tanto può diluire gli enzimi digestivi. Esatto. E quindi ai pasti è bene bere quello che serve, diciamo così. Viceversa, stomaco vuoto, arrivare ai 2 e anche più l'estate litri d'acqua, diciamo un bicchiere ogni 2 ore di veglia per non bere tutto insieme, come giustamente dicevi. È questa la, come dire, posologia corretta. Ho risolto il gonfiore con compresse di lievito di birra e argilla verde. Lei suggerisce questi rimedi o anche in questo caso qua abbiamo sempre delle situazioni individuali da considerare? Possono essere utili, in particolare l'argilla, perché assorbe i gas come il carbone, per esempio, come il carbone vegetale. Non li userei nel lunghissimo periodo perché assorbono un po' tutto in maniera specifica, quindi anche sostanze utili. Ci sono tantissimi rimedi naturali, basta andare in qualunque buona erboristeria e troviamo piante che aiutano contro il gonfiore, le classiche tisane di semi caldi molto buone da bere, come finocchio, cumino, anice, coriandolo, speziate, buonissime, sono antigas carminative, piuttosto che l'olio essenziale di menta piperita che si usa in compresse, è un interessantissimo antispastico intestinale, quindi è venduto in formulazioni apposite, antispastico, antiputrefattivo, antifermentativo, quindi ci sono tantissimi rimedi naturali molto molto utili. Cerchiamo però di non fare l'errore troppo farmacologico, anche se si tratta di rimedi naturali, troppo sintomatico, cioè di prendere il rimedio ignorando quale possa essere però la causa del gonfiore. Quindi magari passa il gonfiore ma non si è risolta la vera causa, che merita spesso di essere indagata. Abbiamo Ivana da Alessandria. Ivana, buongiorno intanto. Buongiorno. Lei quanto mastica pasto? Abbastanza lentamente, proprio perché ho una digestione lenta poi dopo, quindi mi devo regolare così. Brava. Quindi lo sa già, insomma, Ivana ascolta il suo corpo e agisce di conseguenza, però la sua domanda era un'altra, Ivana. Sì, un'altra. In caso di candidosi intestinale, cosa si deve fare? E infatti qua, navigando un po' fra le informazioni scientifiche, ho letto anch'io, dottor Avoledo, ma sai, io sono proprio, come dire, la casalinga di Voghera per dire su queste informazioni. Leggevo che molto spesso questi gonfiori sono causati appunto da questo problema di candidosi, che vai mai a pensarci, insomma. Che cos'è intanto? Beh, anche qua appunto sempre meglio parlarne con il medico, ovviamente. La candida è un lievito fungo, un normale come dire, fa parte della nostra flora simbiotica intestinale usuale, che in alcune situazioni però può virulentarsi, può diventare troppo abbondante e dare luogo a una serie di fastidi sia intestinali sì, anche di tipo sistemico, cioè extraintestinali, piuttosto importanti. La candida è una espressione della disbiosi, cioè della alterazione in senso patogeno, comunque non gradito, della normale eubiosi, cioè del normale mantenimento delle condizioni del nostro popolamento simbiotico, la nostra flora batterica amica a livello intestinale. Quando per una serie di errori alimentari, stress, eccetera, eccetera, farmaci, alcuni farmaci come la pillola anticoncezionale, alcuni corticosteroidi, alcuni farmaci antidepressivi possono alterare la flora batterica in un senso patogeno, per esempio facendo proliferare, come gli antibiotici anche, infestazioni da candida. Come gestirla è un tema anche abbastanza importante da un punto di vista naturale, che è, diciamo così, la nostra specificità. Ci sono alcuni presidi molto interessanti, come perossidi di magnesio, sostanze apposta che vengono usate in farmacia, oli essenziali ad azione disinfettante, che aiutano a attuare una disinfestazione della candida, a cui poi va fatta seguire per però tassativamente una forma di ricolonizzazione, perché mm-hmm. questa azione va a in qualche modo resettare il nostro equilibrio intestinale, e quindi poi i fermenti lattici, i probiotici, tornano ancora buoni per fare questa forma di rimpinguamento dei fermenti batterici. Tra l'altro, come si fa ad identificarla adesso? Con una serie di esami, esatto, che è appunto di competenza medica gastroenterologica. Abbiamo Massimo da Firenze, poi naturalmente dobbiamo rispondere alle domande che abbiamo lanciato all'inizio, anzi adesso ne facciamo una anche a Massimo. Quale preferisce, dottor Avoledo? Di queste domande che abbiamo fatto, sì, vediamo per esempio quante fibre mangia al giorno, se si sa dove trova le fibre. Massimo da Firenze, se lo sarebbe immaginato che sarebbe stato interrogato? No, assolutamente no. Allora, lo sa, la sa la questione delle fibre? Sì, più o meno sì, sono a conoscenza dell'importanza dell'assimilare fibre durante il giorno, però devo dire che sinceramente attraverso la frutta, mangio frutta tutti i giorni, e forse attraverso la verdura. Giusto, ci sono almeno altri tre categorie di alimenti, tre macro categorie di alimenti che sono ricchi di fibre solubili e insolubili: frutta, verdura, direi anche frutta in guscio, le noci, le nocciole, i pinoli, le mandorle, i legumi, fagioli, per chi li tollera, perché in quel caso sono alimenti spesso difficili per chi ha problemi intestinali, però fagioli, lenticchie, piselli in genere molto ben tollerati, ceci, eccetera, eccetera, e i cereali integrali, che sono ricchi appunto di fibra. Benissimo, allora si è meritato di poter fare la sua domanda, Massimo. No, il mio problema fondamentalmente, proprio per quanto riguarda assimilare le fibre e mangiare le verdure, è che soffro di una colite che praticamente mi fa andare di corsa al bagno quando meno me lo aspetto, purtroppo. Da un po' di tempo a questa parte, da circa 3 settimane, ho iniziato tutte le mattine a prendere a stomaco vuoto una bella tazzona di acqua tiepida con un limone spezzato. E devo dire che riesco a digerire meglio, e cioè l'andare in bagno così in modo improvviso. Improvviso, urgente, non è più capitato. Ecco, sapere se. Chi le ha suggerito, peraltro, questo rimedio, Massimo? Così un po' ha fatto da sé, è andato a tentoni, a tentativi? No, ho spucciato online. e poi ho la mia ragazza, che comunque mi ha di provare, perché si occupa anche di farmacista. Intanto c'è anche il blog del dottor Avoledo, che potete andare a controllare, insomma, per vedere lucavoledo.it, facilissimo, ecco, con tanti consigli. Non si può non rintracciare, quindi magari Massimo sicuramente avrebbe trovato informazioni, comunque un rimedio. Allora, per lui è andato bene, ma squadra che vince non si cambia mai, fosse ecco, veramente anche l'acqua del rubinetto, quindi qualunque cosa che funziona, se non fa male, si prende. Io nel caso di Massimo, sì, valuterei bene la presenza di, appunto, che non ci siano delle ipersensibilità alimentare di sorta, ma appunto il fatto che sia migliorato prendendo dell'acqua e limone, questo è un rimedio classico di tante cure popolari, a dire il vero è poco validato dalla ricerca, non ci sono evidenze scientifiche che confermino l'importanza dell'acqua e limone, ma lo usano tanti con grande beneficio, quindi finché si funziona si prende, e sicuramente il fatto di cominciare la giornata con dell'acqua tiepida, che in qualche modo va anche a avere degli effetti di tipo spasmolitico nei confronti della muscolatura. Pensiamo quando abbiamo i crampi alla pancia, mettiamo la boule dell'acqua calda, sì, quindi si comincia con dell'acqua calda, dell'acqua tiepida, magari con un po' di limone, iniziamo già a dare un segnale di idratazione importante all'inizio della giornata per il nostro intestino e per tutto il corpo. Mi sembra una pratica assolutamente buona, opportuna, e se ha degli effetti di questo tipo assolutamente consigliabile. Allora, rispondiamo intanto anche alle altre domande che ci siamo posti all'inizio. Beh, sul tema forse del numero dei bicchieri di acqua durante il giorno, un po' abbiamo risposto. 8-10, diciamo almeno un paio di litri al giorno, d'estate anche di più con la sudorazione. Benissimo, eccetera eccetera. Anche sui fermenti lattici abbiamo esaurito la spiegazione. Sui fermenti lattici potremmo fare 10 puntate, ma per ragioni di tempo, però, ci fermiamo qua. Il tema è magari per chi va in vacanza, anche se non va in un luogo dove potenzialmente fenomeni intestinali potrebbero verificarsi, però è bene portarseli. Potrebbe nel kit di pronto soccorso naturale una confezione, esatto, di fermenti lattici, di quelli generici che trovate, portateveli via. Non ci pesano. Se trascorriamo seduti gran parte della nostra giornata, il nostro intestino lì si impigrisce a causa di questo, ci, esatto, dica un po'. Ci ricolleghiamo alla parte oltre iniziale. Oltre a dover cambiare lavoro, che cosa facciamo? Quello magari non è spesso possibile, quindi almeno telefono, alzatevi ogni tanto dalla scrivania, e se potete invece destinare un'ora al giorno per una passeggiata a passo sostenuto, non vi dico di trasformarvi in alpinisti, mm-hmm. ma almeno una passeggiata al giorno, il vostro intestino vi ringrazierà. Sai che cos'è? Che in realtà io vedo che è proprio tutto sbilanciato. Io sono una sportiva, vado in palestra tutte le sere, un'ora, due ore, eccetera, faccio anche attività aerobica intensa, ma vedo che non compenso, nel senso che comunque sono troppe le ore in cui sto seduta, devo passeggiare forse. Non solo, che non diventi uno stress anche andare in palestra, oddio devo correre in palestra. No, è proprio che vedo che non è che non è bilanciato il numero delle ore tra l'una e l'altra attività. E se siamo prede di tensione e nervosismo e abbiamo l'impressione che la nostra mente, non è che abbiamo l'impressione, le nostre menti, dottore, lavorano tanto. Come dicevamo prima, le nostre menti lavorano tanto e si riverbera questo tipo di attività anche sulla digestione. In questo caso, se non potete permettervi di iscrivervi a un corso di yoga o di meditazione, che sarebbero fenomenali anche per calmare la mente e l'intestino, si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali, per esempio, come alcune piante attività sedativa, la passiflora, la valeriana, che agiscono sull'intestino in maniera indiretta, perché agiscono in primo luogo sulla mente. Mi pare che abbiamo detto tantissime cose. Moltissime. Benissimo, non abbiamo però detto il motivo per cui Simona di Firenze ci racconta, digerisce cipolla, aglio e peperone, ma non digerisce l'anguria. Perché? Ah, questo francamente non saprei. Ci pensiamo però, Simona, adesso lasciamo stimolare appunto così un po' la curiosità anche del dottor Avoledo, che andrà ad approfondire i motivi per cui magari certi alimenti, no, lui lo saprà senz'altro, ma magari perché proprio lei non riesce a digerire l'anguria, il cocomero. Grazie dottor Avoledo, buone vacanze. Grazie naturalmente. Grazie a Laura Vanossi per la collaborazione in redazione, oggi Peter Bescapena assistenza tecnica a Cuore Denario, torno stasera alle 17, buona giornata a tutti. Cuore e Denari.